25. Mezzo miglio prima del forte, serpenti di fumo guizzavano al vento, sotto un cielo di nubi. Le baracche di corteccia spuntavano da una spianata, tra stecchi di vimini incrostati di fango. Visto dalla strada poteva essere un villaggio Seneca, non molto diverso dai tanti che Molly aveva attraversato fin lì. Bisognava avvicinarsi e distinguere i volti per capire cosa fosse davvero. Volti esausti e laceri, spalle curve, gesti frettolosi, occhi spalancati per nascondere la stanchezza. Un drappello di corvi si aggirava tra i fuochi mentre i bambini sudici e impauriti stringevano al petto la loro pannocchia. 3 anni prima, in un'altra terra, avrebbero messo i chicchi sul palmo per invitare gli uccelli a beccare dalle mani. I cuccioli di cane non giocavano a rotolarsi come quelli dell'uomo, ma seguivano il branco nervosi, a caccia di rifiuti. Vanghe e zappe arrugginivano, dimenticate sul retro delle capanne. Ovunque, brandelli di casse sfasciate, pentole sparse attorno ai falò, botti e barili, grovigli di corda, tronchi marci, mucchi di segatura bagnata, pozzanghere larghe quanto uno stagno. Un accampamento di profughi, dove anche lo spirito degli uomini diventava provvisorio. Grida di benvenuto si alzarono dai bivacchi, più alte dei latrati e dei tuoni sordi che echeggiavano sul lago. Lacrime e sorrisi avevano il sapore di un ritorno a casa, come se Canaioarie stesse rinascendo, 400 miglia più a ovest, come se il fiume, i campi di mais, i pini sulle colline, le tombe degli antenati fossero un arto che si può tagliare dal corpo della nazione senza farla morire. Lo sguardo scivolava da una famiglia all'altra per ricostruire storie, lutti, nascite e matrimoni. Molly si ricordava di tutti loro, quando erano partiti e cosa avevano lasciato, eccetto una ragazza giovane, di aspetto curato, che osservava immobile dalla porta di una baracca. Era bianca, certo l'unica dell'intero accampamento, e i grandi occhi chiari avevano un aspetto familiare. Sul polso destro la ragazza indossava un bracciale, troppo distante per vedere il disegno, ma Molly non ne ebbe bisogno. Altri sensi le diedero la risposta, il vampum d'adozione di Philippe Lacroix. Molly si accorse che le voci si erano zittite. Gli occhi delle donne Mohawk erano freddi, trasudavano minacce. Una di loro sputò per terra. «De Gonguadonti, vedo che ci porti in dono mogli e figli di traditori!» La donna si piazzò a gambe larghe di fronte a Leoneida. «È da troppo tempo che non mangio carne. 2 giovani cuori andranno bene!» A Leidis sostenne il suo sguardo. Il corpo tremava. La resata di Molly spazzò il campo come vento d'autunno. «Ora ci sono io. Le razioni saranno adeguate. Quale famiglia di Canaioarie non ha parenti, Oneida? Per me, la legge è ancora valida. Queste sono mie sorelle. Divideranno i giorni amari che attraversiamo e quando la nostra gente vincerà, faranno festa con noi. Questo è ciò che ho da dire». Molly si guardò intorno. Un sorriso terrifico piegava le labbra. Negli occhi c'era tempesta. Ci furono mormorii d'approvazione. La donna, affamata, fece un cenno con la mano, voltò le spalle e se ne andò. L'attenzione della folla si spostò su un carro che saliva dal lago. Dal coro di voci confuse emersero frasi, donne che si auguravano un carico di provviste e vestiti, uomini che pregustavano il rum. Il carro giunse alle prime baracche. Sotto la tela celata si intuivano casse e barili ammassati senza cura. I bambini si fecero largo tra le gambe degli adulti, subito inseguiti dai cani. Molly riconobbe John Butler, seduto a cassetta, molto più vecchio di come lo ricordava. Al suo fianco un ufficiale inglese, tricorno nero in bilico sulla testa. Avanzarono fin dove i corpi lo permettevano, poi Butler tirò le redini, si alzò in piedi e parlò, con voce stanca. «Ascoltate, il colonnello Bolton e io veniamo a porgere il nostro saluto a Molly Brent in nome del Dipartimento Indiano e della guarnigione di Fort Niagara. Il suo arrivo è un evento prezioso, molto gradito a noi tutti ed è nostro desiderio che lo si festeggi come si deve. Il grande padre inglese ha messo a vostra disposizione un carico più ricco del solito. Troverete salsicce, salmone affumicato, gallette di grano e rum». Butler zittì gli entusiasmi, si schiarì la gola e riprese: «Mi è giunta notizia che l'ultimo carico ha suscitato grande scompiglio, con episodi vergognosi che non vi fanno onore. Per questo voglio che restino qui soltanto 5 uomini a svuotare il carro e che tutti gli altri se ne tornino ai loro affari fino a quando non ci saremo allontanati». In un biascicare di proteste, la gente di Canaioarie abbandonò lo spiazzo mentre cinque giovani robusti scioglievano le funi del carico. Molly pensò che mai, prima di allora, aveva visto la sua gente tanto schiava dell'elemosina dei bianchi. John Butler saltò a terra, insieme all'ufficiale inglese. «È davvero un sollievo averti qui», esordì. «La vostra gente è sbandata, c'è bisogno di ordine». «Anch'io sono contenta di vedervi. Avete notizie di vostra moglie e dei bambini?» Il capitano scosse il capo. «No, purtroppo, e c'è di peggio. I Whig hanno catturato anche Walter. Tutta la mia famiglia è in catene». «Questo mi addolora. La guerra ci allontana dai nostri cari. Da 2 anni non vedo mio figlio e mio fratello». «Joseph è qui al forte. Abbiamo stanze provviste anche per voi». La pancia scura delle nubi incombeva sulle capanne. Donne e bambini fissavano la montagna di casse sorta al centro del campo. La voce di Anna chiamò mamma, impaurita dal tuono. «Vi ringrazio», disse Molly. «Accetto la vostra ospitalità». «Siete la benvenuta», si affrettò a rispondere il colonnello Bolton. Poi si voltò, vide che gli scaricatori avevano terminato il lavoro e fece segno di andare. Le prime gocce bagnavano la terra. Molly si voltò a cercare la ragazza, ma la porta della baracca era chiusa.